quell'altra mi ha mandato a bere e sono col baracchino della macchina. Io sto tutto dalla macchina, me l'ho messo qua. Sei 9 qua, La radio è 5. La pulita tranquilla. Va bene anche con l'antennino, là. E quella PLC 800 che avevo in macchina, ho preso e l'ho messa qua. Ma va bene, almeno io ti sento bene, per cui sei 9 come Santiago. E la radio è pulita, va benissimo, capito? Sicché per essere in quel punto vai benissimo. L'unica cosa, l'altro giorno io ho sentito a Tonino, però è lui che non sentiva a me, capito? Però io lo sentivo bene. Peccato che. Quando c'è la posizione giusta per poter mettere l'antenna come si deve, quello è fatto. Non so quanto è brutto, specialmente a uno che è appassionato a queste cose e non ha per il posto per metterci l'antenna come si deve, dà fastidio, Infatti l'altro giorno io lo sentivo, però lui non sentiva a me, è quello che mi dava fastidio. Invece con l'altra non lo sentivo, io sentivo basso, con l'altra. Questa riceve di più, deve essere l'antenna, boh. Ma evidentemente, ma forse secondo anche la posizione dove si trova quell'altro, capito? Perché dall'altra cambia anche la radio, capito il segnale? Già lo so, purtroppo io sono dentro un vicolo qua e cosa puoi fare? Non puoi fare nulla. Magari essendo più in alto questo antennino qua sarei riuscito anche a arrivare da Torino. L'altro giorno l'ho visto di persona che è salito qua a Sassari. Io avevo messo un'antenna di macchina, una specie di frusa nera, che le prime frusa nere che sono uscite, quelle che hanno un marrone viene sotto, il magazzino, siccome avevo preso la roba di Mario e tutto io stavo provando, con quell'antennino mi sentivano un bel gente di Sassari, come dentro il magazzino, ti puoi immaginare, sono parecchi che vanno con 4-5 watt, non di più, capito? Però stazionario non ce l'avevano e mi sentivano, ma dentro il magazzino. Figurati. Ma io sono chiuso qua, magari era più aperto dove si chiude dentro il magazzino. Invece io sono dentro questo piccolo qua e l'antenna è bassa, cosa vuoi? Vabbè dai, ci accontentiamo. Purtroppo non si può fare niente, bisogna accontentarsi così, vai. Tanto non è che siamo sempre in frequenza adesso, magari siamo ogni morto di papa, per cui quando capita una chiacchieratina, magari c'è quello che ti sente bene, quello che ti sente basso, ma purtroppo si può fare niente, bisogna andare così in realtà, capito? Ok, in realtà. Ti lascio, vai, che sto in movimento, sto facendo movimento in casa. Adesso perché ti ho sentito, era la mattina accesa, non c'era nessuno, ho sentito la testa, sono entrato subito. Sentiamo, buona domenica a te e famiglia, alla gentizia ai migliori. E altrettanto già Marida, vabbè, tanto non venisci di no, avanti con lui. Ci sentiamo, va. Ok, ciao.